certo anticipo rispetto all'esame, metterò online, manderò insomma all'indirizzario un documento di sintesi sul corso. L'esame è confermato per il 4? Non ho capito. È confermato il 4 l'esame? Sì, 4 luglio. Per l'esame quello che io chiederò, già l'ho detto, è un testo fra i tanti che avete in bibliografia e una comprensione generale del tema intorno al quale abbiamo chiacchierato nel corso di questo, insomma, di questo periodo, insomma il corso. E a questo scopo, per chi anche ha frequentato poco, che non è il tuo caso, ma insomma è il caso di molti altri, per chi ha frequentato, non ha frequentato sempre, ci sarà la possibilità di utilizzare un documento di sintesi che io proporrò. L'ultimo argomento, l'argomento del quale vorrei parlare un poco oggi, poi in realtà già ne abbiamo parlato, è la formazione del sistema finanziario che oggi entra in crisi, o diciamo proprio la finanziarizzazione avanzata dal punto di vista delle... Beh, io direi che se mi metto lì evito di dover strillare a distanza, visto che sono pochi.